'cause I get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Allora, Deborah, come stai? Ma, tra alti e bassi. Sai, diventa sempre più difficile fare politica lesbica. Le donne non sono interessate, preferiscono le discoteche, le chiacchiere, gli intrallazzi amorosi. E poi, sai, bisogna dire che è anche una questione di efficacia. Bisogna fare anche autocritica. Voglio dire, probabilmente il problema è nostro. Non abbiamo ancora trovato il modo per fare una politica veramente efficace. Comunque, guarda, c'è una lettera per noi. Da dove viene? Aspetta che leggo, da Capodimonte in provincia di Viterbo. Viterbo? E come fanno a conoscerci? Beh, che ne so, forse tanta fatica viene premiata e stiamo diventando famose. Davvero? Potenza dei media. Vedi che non è sempre opportuno criticarli, mass media? A volte riescono a passare anche i messaggi giusti. Ma sai, forse la radio non c'entra. E chi scrive magari ha letto uno degli articoli che abbiamo pubblicato sulla bollettina del CLI. Può darsi. Dai, leggi, leggi. Ho proprio bisogno di un po' di gratificazione, di sentire il calore delle altre donne, di vedere che quello che facciamo è utile. Leggo. Il lesbofemminismo è fascismo. Comincia proprio così? Che ne so, un saluto. Ma sei sicura di capire la calligrafia? Vuoi leggere tu? No, no, continua, vedrai che è solo l'inizio di un paradosso, di un concetto profondo, e quindi all'inizio è un po' ambiguo. Le lesbiche, donne vuote e autoritarie, reprimono le emozioni delle donne, stimolando l'aggressività. Beh, veramente nelle donne cerchiamo di stimolare qualcos'altro. Deborah. Ma no, intendevo la coscienza politica, l'impegno. Caterina, mi vedi vuota e autoritaria? Leggo. Il rapporto lesbico è vissuto sul modello autoritario eterosessuale. Ma scusa, suppongo che questa signora non sia lesbica e quindi che se lo viva lei e non noi il modello autoritario eterosessuale. Comincia a stare calma, per piacere. Tutte, e dico tutte, hanno il diritto di esprimersi. Vediamo come continua, magari... va bene, leggo. Allora, le lesbiche si ruolizzano a maschio e femmina. Dimmi che sta scherzando. Purtroppo no. Si vestono come gli uomini per non apparire femminili e parlano come gli uomini. Hanno un linguaggio duro e forbito di parolacce. Confesso che me ne vengono in mente un paio proprio in questo momento, ma questa ha capito che se ci piacessero gli uomini saremmo eterosessuali? Che il ruolo della lesbica butch è rivoluzionario perché contesta gli stereotipi femminili inculcati dalla cultura patriarcale? Ma Caterina, ti sembra un maschio? Il prototipo lesbico è il maschio, di cui riconosce la cultura. Ancora? Signora mia, mi sembra che lei sia un po' confusa. Dai, Caterina, rispondimi, ti sembra un maschio? Ma no, beh, forse qualche volta. Ehi, no, aspetta, sto scherzando, non fare quella faccia. Ti prego, continua, speriamo che migliori. Le lesbiche sono delle perfette emancipatrici. Scusa, non ho capito. Ora, pure emancipatrici è un'offesa. Mi viene voglia di dire che non è vero. Deborah, la signora è solo un po' confusa. Andiamo avanti. Al posto di essere se stesse e di scoprire la cultura del loro sesso, si ruolizzano a maschio e si esprimono nella durezza. Ah, ma allora è una fissazione. Guardi che la cultura del nostro sesso, quella vera, ce la viviamo molto meglio noi di lei. Vuole un esempio, che ne so, un disegnino? Hanno riconosciuto l'aggressività. Beh, questo è vero. La riconosciamo ogni giorno nei maschi guerrafondai. Eh sì, in gente come lei, che non ha altro da fare che scrivere lettere come questa. Non vogliono che le donne si rapportino agli uomini e poi si comportano come gli uomini. Guardi che donne come lei preferisco che si rapportino solo agli uomini. Poi vedo che hai esperienza nel settore, quindi continui così, mi raccomando. Io ho un brutto ricordo delle lesbo femministe. Ah, ora capisco. Le hanno dato qualche lezioncina di vita e proprio non le è andata giù? Ma su, non la prenda così, capita a tutte nella vita. Sono violente e stupide. Beh, forse la lezioncina non è stata solo verbale. Avranno esagerato un po'. Non hanno mai messo in discussione i ruoli. Ah, ma lei si guarda allo specchio. Scommetto che mentre scriveva aveva una maschera di bellezza sul vivo. Sì, sì, guarda, me la vedo proprio. È un po' unto il foglio della lettera. No, no, no, no. Senti questa. Il ruolo è una convenzione sociale cristallizzata dalle leggi patriarcali che non permette alle emozioni reali di espandersi. Bella questa. Dove l'ha letta? Nel bignami della perfetta femminista, ma attenzione, lungi da me essere lesbica? Il ruolo uccide le emozioni e la cultura individuale. Ah, ma anche questa è una fissazione. Ma perché non ce la spiega meglio la sua cultura individuale? Dai, continua, continua. È finita. Però si firma. Si firma una donna contro il lesbofemminismo. Ma no, non ce ne eravamo proprio accorte. Chissà se è più contro il lesbo o più contro il femminismo. Sei un'ex femminista, sai, di quelle che hanno avuto tanta paura della rivoluzione che hanno fatto, che poi si sono sposate gli integralisti islamici più accaniti, o che si sono rinchiuse in casa, pensando a come era bello stare in piazza in 2 milioni tutte insieme, perché ci si sentiva parte di un tutto. E poi chissà se... Deborah... Sì, se ha lottato a favore dell'aborto, se conduce una dura battaglia personale per i diritti dell'individuo... Deborah... Oppure se... Dimmi, Caterina... Ma va, amore... Ist es ein Feuervogel, der mitten in der Nacht singt, wo ein leises Lied durch so stürmische Nickel. Dieser Silberball mit magischer Kraft, eurem Liebeszauber macht die Nacht den Tag. Quelle che state ascoltando sono le nostre amiche, le Kick la Luna, con il brano Mitternacht. Was für eine Liebeslust im Rausch dieser milden Nacht. Ich sehe die Funken sprühen plötzlich sinneswach. E ora volevamo dedicare una poesia di Emily Dickinson alla donna che ci ha scritto quella lettera terrificante che abbiamo appena letto io e Deborah. Gliela dedichiamo con tutto il cuore. Per chiudere una falla, devi inserirvi ciò che la produsse. Se con qualcosa d'altro vuoi rinchiuderla, ti si spalancherà sempre più grande. Non puoi colmare un abisso con l'aria. Skanka Nancy con We Don't Need Who You Think You Are. E anche oggi Emily Dickinson ci accompagna, quindi vi leggerò qualche sua poesia. Questa era quella dedicata alla luna e noi abbiamo una predilezione per la luna. Non era la luna che un momento dorato, una o due notti fa, ed ora scopre il suo volto perfetto al mondo di quaggiù. La sua fronte è del biondo più regale, la sua guancia un berillo tagliato ed il suo sguardo alla rugiada estiva il più bello che io abbia mai veduto. Le sue labbra ambrate, immobili, ma quale mai deve essere il sorriso che potrebbe concedere ad un'amica se tale fosse il suo argenteo valore? E che squisito privilegio essere anche la più lontana delle stelle nella certezza che essa passerà davanti alla tua porta scintillante. Suo berretto è il firmamento, l'universo i suoi calzari. Le stelle sono gemme alla cintura, i suoi veli l'azzurro. Davvero bellissimo questo brano di Michel Degiosillo. Noi ci teniamo particolarmente a mandarlo spesso in onda perché per noi del coordinamento lesbiche romane è stato quasi la colonna sonora del World Pride, quello nostro separatista. Infatti il brano si intitola Ecclesiastes Free My Heart. We'll be right back. appuntamenti. È nato il primo portale lesbico italiano, www.saffoportal.it, che si autodefinisce portale lesbico di cultura generale, la porta di accesso alla rete per le lesbiche italiane. Il sito sembra promettere bene, anche se è ancora in fase di perfezionamento e quindi al momento c'è qualche problema nella consultazione dei menu ad opzione. Bella e soft la grafica, davvero degna dei migliori portali italiani. Obbligatoria quindi una visita anche, ma non solo, perché cercano collaborazione e questa iniziativa, come tante altre, merita di sopravvivere. E proprio dal Saffo Portal abbiamo raggiunto quella che per noi lesbiche politicizzate era una chimera quasi come la famosa lesbica di Canicattì, circonlocuzione utilizzata, seppure nel rispetto di quella terra bellissima che è la Sicilia, per indicare la lesbica più isolata d'Italia. Abbiamo scovato il sito Lei e Lei, Saffica, Mente, Sardegna, ovvero il sito di un gruppo di lesbiche sarde che si definiscono in questo modo. Siamo ragazze che si sono stancate delle tane scavate tra le mura di cemento in cui nell'isola le lesbiche si nascondono. Siamo appassionate di informatica, artiste e golose di vita a pieno ritmo. Pensiamo solo che il nostro piccolo spazio possa essere presto lo spazio di tante di noi che accrescono a vicenda e lottano per l'unico vero obiettivo, la nostra identità lesbica in questa società ed in questa nazione. Non vogliamo essere nulla in particolare, neppure possiamo definirci un gruppo, visto che ogni mente è, a sé, indice di piena libertà mentale ed opinione. Abbiamo ben poche pretese da avanzare e lo scopo di tutto questo è solo quello di allargare i nostri orizzonti all'Italia ed a tutto il mondo, sentirci unite e accrescere le nostre capacità, usando ogni pretesto per dare sempre il nostro meglio. Vorremmo solo una cosa, che fossimo tutte più unite, al di là di gruppi o paure. Le premesse che hanno queste ragazze sono ottime e galvanizzanti. L'indirizzo del sito è http://web.tiscarinet.it saffica_rc saffica.htm. Collegata al sito è l'associazione lesbica Mitilene di Cagliari, alla quale si può scrivere indirizzando l'email ass.mitilene@infinito.it. Dalle pagine delle news di questo prezioso sito internet abbiamo tratto e commentato la notizia che segue. I risultati di una ricerca della Johns Hopkins University sembra dimostrino che le donne sono predisposte a combattere meglio l'AIDS, anche se purtroppo si ammalano e muoiono con pari frequenza dell'altro sesso. Nell'organismo femminile, la quantità di virus presente nel sangue sembra essere la metà di quanto presente in condizioni simili nell'organismo maschile. Le donne dovrebbero inoltre possedere più cellule TCD4, ovvero i globuli bianchi che svolgono una doppia funzione, quella di difesa dall'HIV e quella di cellule infettate dal virus. Di conseguenza le donne potrebbero reagire diversamente ai medicinali rispetto agli uomini, quindi noi ci auguriamo che anche nelle ricerche contro questo terribile male vengano applicati in maniera corretta i principi di una sana differenza sessuale. Feel you move. poco abbiamo scoperto un servizio utilissimo nato sulle pagine lesbiche del server Donne, su iniziativa delle donne che hanno aderito alla mailing list LLI, la famosissima lista lesbica italiana. Il servizio è consultabile all'indirizzo www.women.it les LLI tamles rassegna rassegna.html e consiste in una rassegna stampa, appunto, basata su riviste, quotidiani e web, focalizzata sul mondo omosessuale. Da questo sito abbiamo tratto e commentato la notizia che segue, pubblicata sulla Repubblica del 31 ottobre. Sono stati denunciati per concorso in lesioni personali e favoreggiamento i due poliziotti in servizio alla questura di Bologna che, nella notte tra sabato e domenica scorsa, hanno partecipato al diverbio e poi hanno assistito all'aggressione di tre ragazzi, scherniti come omosessuali, in una pizzeria del centro storico di Bologna, segnalata anche in una guida gay. I due agenti non hanno fatto i nomi dei due ragazzi materialmente responsabili del pestaggio denunciato dalle tre vittime. Per il questore Romano Argenio si tratta molto probabilmente di altri due poliziotti alla cui identità gli inquirenti contano di risalire in fretta. Insieme all'azione penale nei confronti dei due ragazzi di 22 e 23 anni e in servizio a Bologna è partita anche la procedura di accertamento disciplinare interno per stabilire come si siano effettivamente svolti i fatti. Argenio ha avuto parole dure. È un episodio spiacevole perché è avvenuto in un locale noto per le sue frequentazioni. Non tollero che un poliziotto frequenti quei locali, come non accetto che frequenti una prostituta. Ora, non sappiamo se è più grave l'aggressione o l'affermazione del questore di Bologna. Entrambe, però, sono figlie del fascismo che si è insinuato a Bologna in seguito ai nefasti risultati delle ultime elezioni. Se la sinistra al potere non si sente, ovvero non si avvertono variazioni all'ignominia quarantennale democristiana, bisogna dire che quando la destra va al potere si sente, e come se si sente. Ed ora un po' di appuntamenti ludici. Il 15 di novembre a Padova, alle 21.30, proiezione di L'assassino di Sister George al Circolo Valchiria, via Savonarola 167. E a questo film siamo molto legate noi del Coordinamento Lesbiche Romane, perché da una delle sue frasi storiche abbiamo tratto il titolo del nostro ciclo di trasmissioni. Il 18 di novembre, sempre a Padova, festa organizzata dal Clit Club alla discoteca Joel in via Paggiola 5, Cittadella. Il 25 di novembre, sempre a Padova, festa organizzata ancora dal Clit Club alla discoteca Joel, come prima. Mentre il 25 di novembre a Bologna, la festa organizzata da Visibilia alla discoteca Millennium in via Rivareno 77A. Il 25 e il 26 di novembre, sempre a Padova, che questo mese è attivissima in termini di iniziative, al Teatro delle Maddalene in via 20 settembre 28 si svolgerà la seconda rassegna di teatro lesbico Tribade Ridens. Il 29 ancora a Padova, alle 21.30 proiezione di Immacolata e Concetta al Circolo Valchiria, via Savonarola 167. Ed infine il 30 di novembre a Milano c'è il finale di Cantando sotto la doccia al Recycle in via Calabria 5. ora vi leggiamo un comunicato firmato dal Comitato Donne del Lazio a difesa della 194. Libere di scegliere. Storace è contro le donne. Le gerarchie cattoliche più oscurantiste e la destra negano la libertà e la responsabilità delle donne nella scelta della maternità. Partecipa anche tu all'assemblea pubblica venerdì 17 novembre alle ore 16 presso la Palazzina G della Regione Lazio, via Rosa Raimondi Garibaldi. Vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del martedì femminista autogestito sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Per contattarci potete telefonarci qui in radio allo 06 49 17 50 oppure il mercoledì dalle 21 allo 06 68 64 201, telefono, fax e segreteria telefonica. La nostra email è clrbp@hotmail.com, ma stiamo cambiando e quindi prestissimo vi daremo il nuovo indirizzo. Stiamo ascoltando l'indecisa a livello di identità sessuale Sandra Bernard con 50 ways to leave your lover, quindi chi ha 50 modi per lasciare la tua amante, e quindi chi ha questa intenzione ascolti bene le parole. And Dichiarata, soprattutto, non è no. When I was a young girl like normal girls do, I looked to a woman's love to help get me through. I never needed any more than a feminine touch. I hated the thought of kissing a man. It really was too much. I did not drink. I did not smoke. I did not say, God damn. I was polite. I was sensitive before I loved a man. My family, they were proud of me. E come vedete con le sigle dei nostri stacchetti proprio non ci troviamo, ma piano piano ci riusciremo. E comunque abbiamo tentato di mettere in onda la nostra sigla della musica lesbica indipendente. Oggi ascoltiamo The Mamas con Big Turkey. Big Daddy said it's okay, holding out for love. Don't like it much, but that's the way it goes. Big talker thrills, darker sitting on the time, deciding every day who's next in line. Sick bitch, raise your head, looking for a lover. Sick of all the chills, time for another. I believe you, and I believe you. Put your head on my lap. Don't you know that's where it's at? Everybody's coming, everyone but me, 'cause they don't give me nothing to see. Trip thick, go ahead, kiss me again. I always like it when it ends. 'Cause I believe you, and I believe you. I believe you.